Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Non perdetevi assolutamente la prossima mezz'ora con noi, perché vi regaleremo una puntata di altissimo profilo, tutta al femminile e con due astrofisiche che tengono alto il nome dell'Italia in Europa e nel mondo. La prima, ora emigrata in Germania, ha alle spalle un'esperienza in Israele dove ha realizzato una scoperta che le ha regalato notorietà in ambito scientifico. La seconda non ha davvero bisogno di presentazioni e ci racconterà il suo primo anno da controesodata nella penisola. Tanti ingredienti dunque, e noi partiamo con la frase della settimana, copyright del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: l'innovazione è un elemento cruciale per la crescita di un paese, perciò servono maggiori investimenti in ricerca e sviluppo, maggiori incentivi alle imprese innovatrici, strumenti finanziari per le start-up e i giovani talenti, oltre che legami più stabili tra accademia e impresa, fino al potenziamento qualitativo dell'istruzione. Così Mattarella. L'esortazione del capo dello Stato prende probabilmente lo spunto da cifre emblematiche. Solo il 9% delle imprese italiane scommette su ricerca e sviluppo, un quarto lo fa al di fuori dell'azienda attraverso rapporti con università e centri di ricerca. Intanto un'indagine Alma Laurea traccia l'identikit dei dottori di ricerca italiani: pochi, molto qualificati e con performance occupazionali brillanti. Il problema in questo caso è che ad un tasso occupazionale dell'87% a un anno dal titolo fanno da contraltare le difficoltà da parte del mercato del lavoro di valorizzarne appieno il percorso formativo. I motivi sono noti: forte prevalenza di PMI a gestione familiare, specializzate in settori a medio-basso contenuto tecnologico, e scarsa propensione a investire in ricerca e sviluppo. Un paese dunque ancora in difficoltà nella ricerca, settore che nonostante tutto tiene alto il nome della penisola all'estero. Il sistema di ricerca italiano non è affatto chiuso, il punto è che noi riusciamo ad esportare cervelli e a collaborare nonostante la mancanza di fondi, quindi esportiamo idee, cervelli, ma non riusciamo ad importarne. Alessandra Mastrobuono Battisti, 31 anni, è una astrofisica postdoc, lavoro ad Heidelberg in Germania. Della sua storia parleremo tra pochi minuti, ora spazio al notiziario. Aggiornamento sulla legge contro esodo, oggetto in Parlamento di una girandola di emendamenti. Dopo quello a firma Pagano, ne è sopraggiunto un secondo a firma Chiavaroli Zanoni, che salvaguarderebbe solamente gli expats rientrati in Italia tra il 1 marzo e il 6 ottobre 2015, garantendo loro le condizioni originarie della 238/10. Emendamento quest'ultimo che ha già sollevato parecchie perplessità tra gli stessi controesodati. Si annunciano dunque nuovi emendamenti alla Camera. Probabilmente, insomma, siamo all'ennesimo pasticcio, vi terremo aggiornati. In 5 anni il numero di italiani immigrati è più che raddoppiato, passando da 67.000 a 136.000 unità, lo rileva l'Istat. Le principali mete di destinazione restano Germania, Gran Bretagna, Svizzera e Francia, 45.000 giovani con almeno 25 anni che hanno deciso di emigrare, 12.000 in possesso di laurea. Il Regno Unito resta la meta preferita dai laureati. Più in generale, l'Italia attrae sempre meno stranieri. Le immigrazioni negli ultimi 5 anni si sono ridotte del 38%, passando a 278.000 nel 2014. Tra gli stranieri arrivati prevalgono rumeni, marocchini e cinesi. Pochi, con una disoccupazione in crescita e salari che calano. Questo l'allarmante quadro dei giovani laureati italiani, così come li dipinge uno studio di Chiara Binelli, ricercatrice di economia all'Università di Southampton. Chiara si è presa quest'autunno un'aspettativa ed è tornata per un anno in Italia per fondare un proprio centro. Un'altra bella storia di controesodo, anche se temporaneo. Sentiamo i principali dati della ricerca proprio da Chiara Binelli. Il dato, direi molto preoccupante, sottolinea come nel 2014 ci sia il 19% dei giovani di età compresa tra 25 e 34 anni è disoccupato e il 16% dei laureati tra 25 e 34 anni. In termini numerici parliamo di 252.000 giovani laureati che sono in cerca di lavoro. Dal 2011 ad oggi questi giovani laureati in cerca di lavoro sono aumentati del 46%, i loro salari reali sono diminuiti del 20%, è diminuita la disoccupazione di lunga durata, vale a dire giovani che sono disoccupati da oltre 12 mesi, ed è aumentato in modo molto forte l'utilizzo di contratti a tempo determinato e di lavori precari. Quindi lo scenario per i giovani laureati italiani è molto preoccupante. Al di là della crisi, vi siete dati una spiegazione sul perché tutti i peggiori parametri sono in aumento fondamentalmente. Non è chiarissimo, nel senso che questi dati comunque in un certo senso sono post crisi, perché sono dal 2011 ad oggi. L'idea è che ci siano delle ragioni strutturali che riguardano il nostro paese. C'è un paradosso che emerge in modo incontrovertibile: pochi laureati in Italia, quei pochi vedono aumentare la disoccupazione, vedono aumentare la precarietà e vedono addirittura abbassarsi gli stipendi. Questo è un paradosso enorme. Significativo, sì. C'è anche un problema di tessuto produttivo poco sensibile verso i laureati. Esatto, sì. Molti giovani hanno spontaneamente aggiunto tra le opzioni che stanno considerando andare all'estero. Quindi oltre la metà dei giovani dichiara di considerare l'opzione estero se non troveranno lavoro in Italia. Però la grandissima maggioranza vorrebbe rimanere in Italia. Rincara la Svimez. Tra il 2008 e il 2014 i laureati hanno registrato un incremento percentuale del 20%. Peccato che nello stesso periodo in Italia siano diminuite le quote di occupati in professioni che richiedono un titolo di studio alto o medio ed è aumentata quella delle professioni che richiedono titoli bassi. Se il Mezzogiorno ha registrato la contrazione più importante nella domanda di skills elevate, il Centro-Nord presenta invece una crescita della domanda di basse skills. Premiati da ISNAF, 6 giovani ricercatori italiani in Nord America. I temi delle loro ricerche, giudicate le più innovative, vanno dal ruolo di una proteina nello sviluppo del mieloma alla mappatura dello spazio coi raggi X, fino ai modelli per l'analisi dei big data. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci porta in Germania, paese che ha appena attratto una delle nostre astrofisiche più promettenti. Nome: Alessandra. Cognome: Mastrobuono Battisti. Età: 31 anni. Città di origine: Latina. Studi: dottorato in astronomia. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2012. Per andare dove? Francia, Stati Uniti e poi Israele. Perché? Collaborazioni dopo il dottorato e poi 3 anni di postdoc in Israele. Qual è il lavoro svolge attualmente? Postdoc. Dove? Heidelberg. Tornerai? Non nei prossimi 2 o 3 anni, poi si vedrà. Dottorato in Italia, nessuno mi ha mai spiegato quanto fosse importante pubblicare, avere articoli come primo autore, essere citati e quanto sia fondamentale cercare nuove collaborazioni, perché la scienza è fatta soprattutto di nuove idee e le idee vanno sviluppate con degli strumenti. Così c'è scritto Alessandra e ti chiedo, a tuo parere la chiusura del sistema di ricerca italiano, la principale nemica della ricerca stessa, al di là della cronica mancanza di finanziamenti, mancano mobilità di idee e di cervelli secondo te? No, secondo me il sistema di ricerca italiano non è affatto chiuso, il punto è che noi riusciamo ad esportare cervelli e a collaborare nonostante la mancanza di fondi, quindi esportiamo idee, cervelli, ma non riusciamo ad importarne. Questo è il problema fondamentale. Quello che manca è un flusso in entrata. Sì, un flusso in entrata. Ho scelto di studiare astrofisica alla fine del liceo. Ero giovane e incosciente, sapevo che non avrei trovato lavoro prendendo questa strada, ma non me ne sono curata. Così ricordi l'inizio della tua carriera. Perché proprio l'astrofisica? Quale passione ti ha portato su questa strada? Sicuramente la passione che avevo per la matematica e la fisica e l'interesse per capire come funzionasse l'universo, è questo che mi ha fatto scegliere. Ti iscrivi alla laurea triennale all'Università della Sapienza. Che giudizio dai innanzitutto della qualità dell'insegnamento, da 1 a 10? 8,5 almeno. I professori sono molto preparati, essendo ricercatori anche loro sono aggiornati e quindi ci seguivano moltissimo. Molto bene. Nel 2008 ti laurei con una tesi su ammassi globulari, ammassi nucleari e buchi neri. Ti si para di fronte alla scelta: cercare un lavoro che non avesse nulla o poco a che vedere con l'astrofisica o proseguire col dottorato di ricerca in università. E scegli la seconda strada. Perché? La ricerca che avevo fatto durante la tesi mi era piaciuta moltissimo e c'era ancora moltissimo da fare, quindi ho deciso di continuare con il dottorato. Le alternative non mi attraevano moltissimo, sarebbero state quelle di lavorare in un'azienda oppure in una banca usando le mie conoscenze matematiche. Ti iscrivi a una borsa di dottorato sempre alla Sapienza, dopo un'estate di studio vinci il concorso e allora ti chiedo, com'è la ricerca italiana vista dall'interno, al di là dei luoghi comuni? Ecco. Secondo me abbiamo molto capitale umano e facciamo già moltissimo considerando le risorse che abbiamo a disposizione. La ricerca italiana è molto produttiva, in astronomia in particolare. Quello che manca è la stabilità, il turnover e il fatto che i contratti per i postdoc siano soltanto annuali, e questo non è molto attraente né per noi italiani né per gli perché stranieri. Perché mancano prospettive effettivamente. Sì, manca, no? La lungimiranza, sì. Le prospettive. Non è poco. Nel 2012 consegui l'ambito dottorato in astronomia con una tesi su ammassi globulari e ammassi testi nucleari, contemporaneamente ti mette alla ricerca di un postdoc fuori dal paese. E allora ti chiedo, in Italia non c'era possibilità? In realtà non ho neanche cercato in Italia, ho dato per assunto che dovessi andare fuori almeno per un breve periodo, che poi non è stato breve, non sarà breve, per poi avere l'opportunità di tornare. Giovani Talenti si ferma per un attimo, ci sono strade in diretta, noi torniamo subito dopo. Nuova Audi A4, scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta Giovani Talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Alessandra Mastrobuono Battisti, 31enne astrofisica postdoc al lavoro in Germania. Alessandra vi approda dopo un'esperienza in Israele, durante la quale realizza una scoperta che le fornisce notorietà nell'ambiente scientifico internazionale. Forse in Italia un giorno tornerà, ma per far sì che ciò avvenga occorrerà incentivare una cultura che valorizzi per davvero la ricerca nella penisola, un asset che lei definisce fondamentale. Riprendiamo allora l'ascolto. Giovani Talenti. Dopo domani me ne andrò da questi lidi, cercherò asilo negli Stati Uniti, e a Livorno è pronto già un battello che porterà lontano il mio cervello. Ho prima fatto domanda e vinto una borsa di collaborazione europea, spostandomi in Francia all'Osservatorio di Parigi, dove ho collaborato con una ricercatrice italiana. Poi ho inviato numerose domande presso vari istituti internazionali, fin quando mi è stata offerta una posizione al Technion di Israele ad Haifa, racconti. E per studiare cosa? Per studiare come evolve la nostra galassia e tutte le galassie nell'universo. Più in particolare ho studiato il centro della nostra galassia, come si muovono le stelle intorno ai buchi neri supermassicci. È molto affascinante. Sì. E poi ho iniziato anche a studiare il sistema solare, che nonostante sia casa nostra non lo conosciamo poi così esattamente tanto. Esattamente. Quanto è stato facile approdare al Technion? È vero che non hai dovuto neanche fare un colloquio? È vero, ho ricevuto l'offerta di lavoro e per fortuna non ho dovuto fare l'interview, il colloquio, però comunque cercare lavoro ogni 2 o 3 anni è una cosa stressante, si vive sempre un periodo di tensione che dura diversi mesi. Chiaro. È molto interessante raccontare l'ambiente di lavoro che trovi in Israele, un capo giovane, informale, per nulla gerarchico, che ti responsabilizza fin da subito. E poi quanto margine di azione hai avuto, sia nella tua crescita professionale che nelle tue ricerche? Il mio capo in Israele mi ha sempre spinto ad avere idee mie, ad essere creativa, ho sempre avuto la possibilità di portare avanti la mia ricerca indipendentemente da lui, ma comunque è stata la collaborazione con lui che mi ha insegnato veramente a fare ricerca, in tessere collaborazioni, ad essere mobile, sì. A metterti in gioco. In Israele porti a termine la ricerca che ti rende nota in ambito scientifico, che ti vale anche una pubblicazione sulla rivista Nature nell'aprile di quest'anno, ricerca che ci aiuta a svelare qualche mistero sulla Luna. Allora ti chiedo di essere molto sintetica e semplice, però cosa hai scoperto? Abbiamo potenzialmente risolto l'enigma della somiglianza in composizione chimica tra la Terra e la Luna, perché il meccanismo di formazione più probabile per la Luna è quello di un impatto tra la Terra e un pianeta delle dimensioni di Marte. Questo pianeta Theia si distrugge in questo impatto e dai detriti si forma la Luna. Però si pensava che Theia dovesse essere completamente diverso in composizione chimica dalla Terra, come lo sono tutti i pianeti nel Sistema Solare. Noi invece abbiamo provato che questo non è vero. In una grande frazione degli impatti il Theia è simile alla Terra e quindi può dare vita a una Luna simile alla Terra. Complimenti. Questa primavera riprendi a mandare curriculum in giro per il mondo fino ad essere accettata al Max Planck Institute for Astronomy di Heidelberg, in Germania, uno dei maggiori centri europei nel settore. Di cosa ti occuperai? Mi occuperò di quello che mi sono occupata fino adesso, quindi dell'evoluzione di sistemi stellari antichi che evolvono intorno a buchi neri supermassicci. Continuerò a lavorare sulla Luna. E a farci sognare un po', forse, sì. No? A spiegarci i misteri del nostro universo. Penso che la situazione della ricerca in Italia non sia così terrificante. Molti paesi sono in crisi, gli stati non forniscono abbastanza soldi, la crisi è diffusa, non localizzata solo nella penisola. Dovremmo però reagire, far capire alla gente che la ricerca è fondamentale per la crescita di un paese. Questo manca in Italia più che altrove, rifletti. Perché, nonostante tutto, ti chiedo, Alessandra, si fatica così tanto a far comprendere in questo paese l'importanza della ricerca? Me lo chiedo anch'io e non riesco a capirlo, perché è un concetto banale. La ricerca è quello che serve per progredire. Senza ricerca non c'è progresso. La società non evolve, non troviamo modi per vivere meglio. In un'intervista al Corriere della Sera hai detto, un po' amaramente e anche ironicamente, fossi ancora in Italia starei a fare la calza. Ti ci vedi a tornare qui un giorno? Vivere in un paese straniero non è affatto semplice, ricominciare tutto da capo ogni 2 o 3 anni è una cosa stressante, e quindi spererei un giorno di tornare in Italia, che è il mio paese. Domanda di rito, come vedi l'Italia dall'estero, cosa c'è che non va e una proposta concreta da cui ripartire? Secondo me non va l'eccessiva burocrazia, la mancanza di fondi pubblici e privati, il fatto che si consideri la scienza come un inutile passatempo, quasi filosofia, e si dovrebbero incentivare, secondo me, le industrie a fare ricerca, a spingerle a impiegare fondi per questo. questo, e soprattutto bisognerebbe evitare di tagliare i fondi all'istruzione, perché l'istruzione è il pilastro della società. Ci raggiunge ora in linea Sandra Savaglio, una delle più note astrofisiche italiane, già in copertina sul prestigioso settimanale Time, soprattutto autrice di una scelta importante: rientrare in Italia. Buon pomeriggio, Sandra. Salve a tutti. Allora, tu in Italia hai deciso di tornare, e lo hai fatto sorprendendo molti, lo hai fatto proprio dalla Germania, per andare all'Università della Calabria come professoressa ordinaria di astrofisica. Allora, un anno dopo, qual è il tuo primo bilancio del controesodo? Io sono ancora molto contenta di essere qui, mi sono resa conto che c'è tanto da fare, ci sono tanti buchi che bisognerebbe riempire, però ci sono moltissimi stimoli proprio per questo, perché c'è tanto da fare. Per quei pochi che ancora non ti conoscono, sei una delle astrofisiche italiane più note, grazie anche a una copertina del settimanale Time nel 2004, che ti aveva identificato col brain drain dei cervelli europei negli Stati Uniti. In quegli anni ti trovavi nel Maryland, e poi il trasferimento in Germania, prima del rientro in Italia per chiamata diretta. Allora, te l'avranno già fatta in molti, te l'ho fatta anch'io tempo fa, ripetiamolo: perché hai fatto questa scelta? Motivi professionali o ideali? Motivi professionali prima di tutto, perché è un'offerta molto buona. Rientrare con questa posizione in Italia è meglio che il nostro paese ci offre in questo momento. È anche stata comunque una scelta di crescita per me, ritornare dentro un'università. Io stavo in un istituto di ricerca, è stato importante. In Italia c'è più spazio per la creatività, per l'iniziativa, anche perché comunque si investe così poco che alla fine, insomma, è difficile che qualcuno ti venga a dire che cosa devi fare. Nelle riflessioni che ci ha inviato a giovanitalenti@radio24.it, Sandra, sei molto critica nei confronti del modo in cui vengono gestiti i fondi per la ricerca in Europa. Piove sempre sul bagnato, i soldi vanno ai paesi che già ne stanziano a sufficienza, denuncia. Allora, quali sono le problematiche, in sintesi, a tuo avviso, più evidenti? Bisognerebbe indagare questa questione. I sospetti sono che Germania e Regno Unito ricevono più fondi di tutti gli altri paesi in Europa, fondi europei. Allora uno si chiede: ma l'Italia paga questi fondi, no? E poi non rientrano in qualche modo. Allora, è vero che la Germania, il Regno Unito si può permettere di suo di arruolare le migliori menti che ci sono in Europa e nel mondo, perché ha i fondi per farlo. E poi comunque gliene arrivano altri dall'Europa, e alla fine quelli che sono penalizzati sono i paesi come l'Italia, per esempio, che non riceve tantissimi fondi a livello europeo. Allora io mi chiedo: ma come mai? Lasciamo la domanda in sospeso, sperando che qualcuno dia una risposta. Alessandra, hai una domanda per Sandra Savaglio? Com'è lavorare in Italia? È molto diverso dalla Germania. Sicuramente in Germania ci sono le condizioni giuste per fare il proprio lavoro, però quello che io sono contenta di aver ritrovato qui è il fattore umano e la creatività. Grazie a Sandra Savaglio, in bocca al lupo per il tuo controesodo. Domanda di rito per Alessandra Mastrobuono Battisti: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando tra le varie vie di uscita a un espatrio? Primo consiglio è quello di non considerare questa scelta come una scelta senza ritorno, è un'opportunità di crescita sia personale che professionale. E poi, secondo, una cosa importante che vorrei dire ai giovani è quella di chiedere: scrivete alle persone che sono già nel gruppo in cui vorreste unire, se siete in accademia per esempio, ai postdoc, agli altri studenti, chiedete informazioni sull'ambiente di ricerca e anche su quello umano, perché dovete lavorare bene, dovete vivere bene. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi vi segnaliamo: un funzionario per lo sviluppo e il marketing alla World Maritime University di Malmo in Svezia, scadenza per i CV 3 dicembre, candidature a Marco Battista, mb@wmu.se. Un redattore di contenuti per Eumetsat a Darmstadt in Germania, scadenza per i CV domani, info su onlineapplication.eumetsat.in. Infine, un ricercatore esperto nello sviluppo di biomarker diagnostici alla Canterbury Scientific Ltd di Christchurch, Nuova Zelanda, candidatura linley@str.co.nz. E siamo giunti ad Expats, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova emigrazione professionale. Siamo all'ultimo sabato di novembre e, come tradizione vuole, tocca alle vostre lettere. Oggi protagonista di questo spazio è Stefano, che torna sul pasticcio delle due norme per il rientro dei cervelli, del quale vi abbiamo ampiamente parlato in questi mesi. Il suo è soprattutto un avvertimento all'Italia: sii più credibile, non fare promesse che poi non manterrai, riflette Amaro. La lettera di Stefano. Buongiorno Sergio, mi chiamo Stefano, ho 31 anni. Mi piacerebbe esporti la mia storia affinché tu possa leggere casi reali come il mio sul tema del rientro dei cervelli e delle recenti normative, articolo 16 del decreto legislativo 147. In sostanza, ci sono famiglie che hanno deciso di rientrare in Italia a condizioni salariali inferiori e dopo importanti esperienze lavorative all'estero, anche per merito della proroga al 31/12/2017 della legge 238 del 2010. Ho letto la normativa. Io, ad esempio, mi sono trasferito a giugno 2015, dopo aver letto che a febbraio, con il decreto mille proroghe, il beneficio fiscale del 70% era stato esteso fino al 31/12/2017. Giusto per darti il quadro della cosa, io guadagnavo il 50% in più all'estero. Per non parlare di mia moglie, che pure lavorava all'estero e rientrata in Italia, essendo in dolce attesa, non ha potuto trovare nessun lavoro perché discriminata ai colloqui. Al mio rientro, il gap tra lo stipendio americano e lo stipendio italiano era parzialmente coperto dal beneficio della 238 del 2010. Se il decreto legislativo viene applicato così com'è, cancellazione della proroga della 238, io non rientrerò più nei requisiti dal 31/12/2015 e in sostanza sono rientrato con fatica e sacrificio in Italia, contro il parere di molti. Che rientri a fare in Italia, mi dicevano, qui non ci sono possibilità, contando su un incentivo che era appena stato prorogato, e scopro dopo pochi mesi che le regole vengono cambiate anche a chi rientrava nel regime agevolato, con tutti i requisiti al momento del rientro. Spiegarla così è difficile. Il mio caso è davvero emblematico e mostra che forse i cervelli farebbero meglio a stare alla larga dall'Italia, perché se per caso pensano di ritornarci, il paese è pronto a fregarli, non smentendosi mai anche nei confronti di chi voleva dargli una seconda opportunità. Un motivo per restare o tornare. Luxottica sarà il primo grande gruppo a introdurre il patto generazionale per favorire l'uscita dei dipendenti prossimi alla pensione, collegandola all'inserimento dei giovani. Nell'arco del prossimo triennio, 100 dipendenti prossimi alla pensione potranno chiedere il part-time al 50%, rendendo così possibile un pari numero di giovani, selezionati secondo criteri di merito, l'opportunità di un'assunzione a tempo indeterminato. Importante sottolineare che non è previsto alcun legame di parentela tra uscenti e entranti. Per interagire con noi potete collegarvi online sul sito di Radio 24, sezione social, su Facebook, nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina Fuga dei Talenti potrete rispondere alle discussioni del mese che rilanciamo anche sul gruppo La Fuga dei Talenti all'interno del portale LinkedIn. Potete pure contribuire al blog dei giovani talenti all'interno di radio24.it. È aperta l'iniziativa hashtag collegata a Fuga dei Talenti. La stringa del mese è Pentiti o Felici, dibattetene in 140 caratteri. Siamo allo spazio Internectivo, ogni ultimo sabato del mese leggiamo le vostre lettere in onda. La discussione di novembre è rivolta a tutti coloro che quest'anno hanno deciso di tornare in Italia. Dopo il pasticcio delle due norme sui controesodati, siete pentiti o felici di aver fatto la scelta di tornare nella penisola? Vi sentite delusi o, se volete, traditi da norme cambiate in corsa? O, al di là di tutto, ne è valsa la pena rientrare a casa? Per condividere idee, proposte e denunce nel nostro forum scriveteci giovanitalenti@radio24.it. Vi ricordiamo infine che siamo sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare. Se siete under 40 ed espatriati, potete candidarvi a giovanitalenti@radio24.it. Scriveteci. Finisce qui questa puntata di Giovani Talenti. Aspetto dunque i vostri contributi via email. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30, sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.